Radio 24 Reportage. Il lavoro ai tempi della sharing economy di Maria Luisa Pezzali. Lavoro tutti i giorni, mattina e sera. Ci sono un sacco di ragazzi che studiano e che hanno altri impegni e non riescono a fare così tanto. Magari vengono per una o due consegne e li mandano a casa. Ho fatto tanti lavori, però avevo la passione per andare in bici, però se sei sottopagato non va bene. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Mikhail è rumeno, ha 24 anni, da 10 vive in Italia, a Milano. Ha fatto il muratore, l'elettricista, l'imbianchino e da qualche mese fa il rider, il fattorino in bicicletta. Consegna il cibo a domicilio, viene pagato 3,70 euro a consegna e in un mese riesce a guadagnare 1000 euro. Ma io sono il più bravo, ci dice senza falsa modestia, e la bicicletta è mia così come i costi per la manutenzione. Dischi per i freni, catena, te ne rubano una al mese, ci dice, e quelle buone costano 50 euro. Il settore del food delivery muove in Italia un giro d'affari di 400 milioni di euro, è una delle aree di investimento più vivaci per i venture capitalist di tutto il mondo. È l'economia dei servizi on demand, pronta a soddisfare ogni nostra esigenza nel più breve tempo possibile, in un modo del tutto nuovo e ad un prezzo vantaggioso. Come ci riesce? Utilizzando risorse inedite rese operative dalle piattaforme tecnologiche. Per i consumatori, gli stessi che hanno trainato il boom di Uber, Airbnb e di tutte le piattaforme della sharing economy, in Italia le usa uno su quattro, i vantaggi sono innegabili. Per i lavoratori, però, le zone grigie sono molte, ancora tutte da chiarire. Abbiamo incontrato persone che vogliono mettersi in strada a Milano per portare anche lì la protesta. Abbiamo dei corvi che ci informano che probabilmente salteranno sui dirigenti. Ma magari ne manderanno uno furbo che, anziché chiudersi nel silenzio stampa, decide di iniziare a trattare su cose serie, come il contratto, come la paga, come le punizioni che vengono effettuate contro i lavoratori che protestano. Associare la parola lavoro a tempo libero è proprio una porcata. Il lavoro, per quanto possa sembrare minimo, per quanto possa sembrare una passeggiata, deve essere pagato, perché un lavoratore, una persona, mette a disposizione il proprio tempo per offrire un servizio. Partita da Torino, si sta allargando anche a Milano la protesta dei riders di Foodora, piattaforma tedesca da 3 miliardi e mezzo di dollari. Siamo sottopagati e iperprecarizzati, denunciano, invitando i consumatori a boicottare il servizio. Chiedono un aumento della retribuzione, l'eliminazione del cottimo e maggiori tutele. Protesta analoga a quella di quest'estate a Londra dei lavoratori di Deliveroo e Uber Eats. Una situazione che ricorda la stretta sui salari nel mondo della logistica, parallela al boom dell'e-commerce. Sul caso Foodora è intervenuto anche il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha mandato gli ispettori. Se la soluzione prevista dall'azienda si basa sul ti piace andare in bicicletta, ha detto, vuol dire che abbiamo un bel problema da affrontare. Così alla Camera la ministra per le riforme Maria Elena Boschi. È in corso una verifica, gli ispettori del Ministero stanno effettuando le verifiche ed è ovvio che se dovessero emergere violazioni di leggi verranno adottati i provvedimenti conseguenti. Tra l'altro il ministro Poletti, anche nell'ambito dell'ultimo consiglio che riunisce i ministri del lavoro e delle politiche sociali dell'Unione Europea, ha posto più in generale il tema di come si affrontano le opportunità offerte anche dall'e-commerce, ovviamente in ambito lavorativo, ma tutelando i diritti dei lavoratori sia da un punto di vista retributivo e previdenziale, sia per quanto riguarda il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, della salute dei lavoratori, chiedendo che si apra una discussione, un tavolo per individuare una strategia a livello europeo. L'azienda da parte sua, con un comunicato, si è detta pronta a confrontarsi con le istituzioni, sottolineando che soltanto una minima parte dei propri rider ha preso parte alla protesta e rendendo noto di aver deciso di allineare il compenso per ordine in entrambe le città in cui è presente al momento, Torino e Milano, portandolo a 4 euro lordi a consegna. Luciana Litizzetto e Maurizio Crozza la vedono così. E comunque, come